Focus Economia. Con Simone Spezia. Le 17 e 8 minuti. Buonasera, gentili ascoltatori, da Simone Spezia e benvenuti a questa nuova puntata di Focus Economia. Una puntata nella quale, naturalmente, come già accennavamo all'interno del giornale radio, parleremo di mercati e delle prossime mosse della Banca Centrale Europea. E soprattutto, ancora una volta, di questo dibattito che a Berlino sembra farsi più intenso. Nelle dichiarazioni di oggi ci è sembrato di leggere, non so se sbaglieremo, se sbagliamo, ne chiederemo conto al collega che si trova a Francoforte, un certo contrasto tra le posizioni della Bundesbank e quelle del governo di Berlino, perché da una parte le dichiarazioni di questa mattina della Banca Centrale Tedesca sono state molto dure, sia nel ribadire la posizione piuttosto contraria all'acquisto di nuovi bond di paesi periferici, insomma all'idea che la Banca Centrale Europea faccia da scudo antispread vero e proprio nel momento nel quale lo scudo antispread non è ancora attivo, perché si aspetta proprio il via libera della Corte Costituzionale tedesca il 12 di settembre, dall'altra parte dura anche sulla possibilità che il Fondo Salva Stati, l'ISM, ottenga licenza bancaria, un'idea che era stata espressa ieri dal governatore della Banca d'Austria Novotny e che è uno degli elementi sui quali si potrebbe contare, appunto, per risolvere la crisi, per tener calmi i titoli di Stato in questa fase di implementazione, scusate la brutta parola, insomma di messa in atto delle riforme. E quindi questo è uno dei temi che toccheremo. I mercati vanno bene, come si diceva prima, il FTSE MIB guadagna il 3%, il FTSE OCR il 2,26, bene Parigi più 2,17, Francoforte più 1,5%, il tutto sulla scorta anche di un dato sul PIL americano positivo, un più 1,5% nel secondo trimestre, che è ottimo. Di che altro parleremo oggi? Parleremo dell'ILVA, naturalmente, abbiamo toccato il tema poco fa. Quello che cercheremo di approfondire oggi, in una vicenda che è estremamente delicata, e anche i messaggi che avete mandato ieri al 349-238-6666 lo dimostrano, vicenda nella quale è probabilmente sbagliato porla in termini di ricatto occupazione versus salute, ma bisogna guardare banalmente alle cose concrete. Una delle cose che cercheremo di fare oggi, cercando di capire, perché molto si è parlato dell'indotto e dell'occupazione diretta dell'ILVA, cercheremo di capire le questioni che riguardano l'output dell'ILVA, ossia dove va l'acciaio di Taranto e che problemi di approvvigionamento potrebbe creare lo stop dello stabilimento. Apriremo invece la puntata parlando dello scontro tra Sergio Marchion e la Volkswagen dopo le parole di ieri delle quali vi abbiamo riferito, l'accenno ai temi del credito privilegiato, se così vogliamo dire, privilegiato dallo spread del quale gode la Volkswagen, e la questione dei prezzi. Ebbene, la Volkswagen dice Marchionne non deve essere più il presidente della CEA, l'associazione che rappresenta i costruttori di automobili europei. Infine sentiremo un'intervista al direttore di Confindustria Modena per fare il punto a due mesi dal sisma. Ripeto, 349-238-6666 per i vostri sms. Le notizie in breve. L'oro stabile questa mattina, 1615 dollari l'oncia, petrolio invece in rialzo per quanto riguarda quello con consegna a settembre, il WTI a 89,49 dollari al barile, di poco il rialzo, dello 0,11%. Per quanto riguarda il Brent, il rialzo è più netto dell'1,05% a 106,3 dollari al barile. Nel frattempo è stato sospeso lo sciopero del 4 e 5 agosto dei benzinai, lo avete già sentito nel giornale radio, anche questo è uno dei temi che toccheremo nel corso di Focus Economia. Come si diceva, il prodotto interno lordo americano, buona notizia, più 1,5% nel secondo trimestre, dopo il 2% del primo. La prima lettura questa, gli economisti interpellati da Bloomberg si aspettavano una crescita dell'1,4%. A pesare sul fatto che il PIL abbia rallentato comunque rispetto alla crescita del primo trimestre, c'è stata la brusca frenata dei consumi, perché nel periodo aprile-giugno hanno registrato un rialzo di appena l'1,5%, l'incremento più debole da inizio anno contro il più 2,4% dei primi tre mesi del 2012. Del resto, la fiducia ai consumatori, altro dato di oggi negli Stati Uniti, torna ai minimi del 2012, un calo a 72,3 dal 73,2 di giugno. Il Tesoro ha collocato bot a 6 mesi per 8 miliardi e mezzo di euro. Veniamo dunque agli aspetti europei, il target massimo previsto, registrando un calo di 0,5 punto dei tassi. Rendimento medio è sceso al 2,45% dal 2,95% di giugno. E veniamo al dichiarazionificio europeo. Oggi telefonata tra Merkel e Hollande, faremo di tutto per proteggere l'eurozona. Siamo obbligati all'integrità dell'eurozona, ci vuole un'attuazione rapida delle misure previste dal summit europeo. Poi bisogna vedere che interpretazione gli si dà a queste misure, probabilmente quella di Merkel e quella di Hollande sono diverse. Come si diceva, Berlino è in linea con la Bundesbank dal lato della licenza bancaria per il futuro meccanismo europeo di stabilità, l'ISM. Lo dice il ministro tedesco Wolfgang Schäuble, ribadisce di essere contrario a quest'idea. Dice la portavoce di Schäuble, se uno Stato vuol far comprare i propri titoli deve presentare una domanda in linea con quanto già previsto. E però Schäuble dice anche bene le dichiarazioni di Draghi su misure per la salvezza dell'euro, sempre aperte virgolette nell'ambito del mandato vigente. Bisogna vedere se gli si dà un'interpretazione estensiva o restrittiva. Innanzitutto riforme, dice ancora Schäuble, bene quelle di Roma e di Madrid, quindi il tono delle dichiarazioni è più o meno sempre lo stesso. Per quanto riguarda Madrid invece, nuova indiscrezione questa volta da Reuters, che parla di un piano a 300 miliardi di euro che la Spagna avrebbe chiesto alla Germania per salvarsi, insomma per salvare lo Stato e non le banche in questo caso. Indiscrezione che era già circolata, ve l'abbiamo raccontato nei giorni scorsi, diffusa dal Guardian dopo l'incontro tra il ministro De Guindos e il tedesco Schäuble. Appunto, Madrid ribadisce non ci sarà alcun salvataggio. Nel frattempo in Spagna la disoccupazione arriva al 24,6%, i massimi dal 76. Brevemente la vicenda Ilva, poi ci torneremo, il procuratore generale di Lecce Giuseppe Vignola ha spiegato i motivi che hanno portato a chiedere ed ottenere il sequestro per l'Ilva di Taranto, una decisione sofferta ma anche senza alternative, ha detto il magistrato, sostenendo che l'Ilva di giorno rispettava le prescrizioni, di notte le violava. La Federazione dei Produttori d'Acciaio, Federacciai, dice il provvedimento si basa su valutazioni opinabili, rischia di avere drammatiche conseguenze economiche sociali e ha chiesto per questo un intervento al governo. Spending review, anche Banca Italia dovrà tirare la cinghia e tenere conto dei principi contenuti nel decreto. E le tasse degli atenei fino al più 100% per i fuori corso, battaglia dura come promesso dal ministro Profumo. E ora le notizie su cos'è questa crisi. Ma cos'è questa crisi? Ma cos'è questa crisi? Ah, la crisi. Iniziamo dal governo indiano. Il governo indiano che fa una promessa ai suoi atleti. Che cosa vi aspettereste? Cifre di denaro per ogni medaglia? Ebbene no. Posti di lavoro in cambio di medaglie olimpiche. È la proposta del governo indiano, invia gli atleti partiti per i giochi di Londra. Abbiamo 400 posti vacanti in diverse posizioni del SAI, l'autorità nazionale dello sport. Insomma, se prendete una medaglia potete entrare. Di certo, insomma, quantomeno un po' di meritocrazia c'è, perché è l'autorità per lo sport, insomma, se gli atleti non ne sanno qualcosa. cos'è questa crisi? Ma cos'è questa crisi? Non so come la vedete, però c'è una squadra di Serie D italiana che sarà quotata alla borsa di New York. C'è un bel pezzo, tra l'altro, sul sito del Sole 24 Ore. Il nuovo proprietario italo-americano Joseph Cala ha reso noto che la Calcio Lecco Holding della Cala Corporation è l'unica società calcistica mondiale quotata nel mercato azionario americano. Pertanto sarà automaticamente aperta, appunto, a tutte le borse mondiali. Ha acquistato la Cala Corporation, che è quotata, ha acquistato il 79% della Calcio Lecco, che quindi praticamente in modo automatico entra nel listino di New York. E poi quella con la quale chiudiamo, l'avete sentita anche nel GR, è la TOZ, che aiuta i dipendenti, un contributo di 1.400 euro a dipendente, l'assicurazione dei costi sanitari per cure specialistiche, interventi chirurgici, la copertura dei costi per l'acquisto dei libri scolastici dei figli, scrive l'azienda in un momento particolarmente difficile per l'economia del paese, che genera forti preoccupazioni fra i lavoratori in merito alle prospettive del loro futuro e alle loro crescenti difficoltà economiche quotidiane. Veniamo al primo tema di giornata, Fiat. È già iniziata, perché lo so che Marchionne divide, 349-238-6666 per gli sms. Provate a far capire a Marchionne, ci scrive Beppe, che se una Fiat scivola è una Volkswagen, no, non è a causa dello spread. Vabbè, insomma, comunque, ieri le dichiarazioni dell'amministratore delegato di Fiat, dice: la politica dei prezzi di sconti aggressivi messa in atto da Volkswagen è un bagno di sangue sui prezzi e sui margini, oltre a dire sulla situazione generale che non l'ha mai vista così difficile. E oggi la replica di Volkswagen, che chiede le dimissioni di Marchionne dalla CEA, l'Associazione delle Case Automobilistiche Europee. La Commissione Europea intanto dice che non è a conoscenza di pratiche scorrette sui prezzi applicate dalla Volkswagen. Saluto Andrea Malan del Sole 24 Ore, che è in studio con noi in realtà da una decina di minuti, l'abbiamo fatto venire un po' prima. Buonasera Andrea. Buonasera a tutti. Allora, che cosa c'è dietro questo scontro? Dunque, c'è, diciamo, la parte folcloristica, se vogliamo chiamarla così, è la disputa tra Marchionne e la Volkswagen, in particolare il presidente Piëch, che va avanti, lo sappiamo, da qualche anno. Ci sono state lunghe trattative per la vendita dell'Alfa Romeo, si fa, non si fa, Volkswagen offre troppo poco, i tedeschi hanno anche fatto dell'ironia sul fatto che prima o poi Fiat dovrà venderla perché non starà più in piedi. Marchionne ha risposto picche ed è iniziata così una cosa che va avanti da un paio d'anni. Ovviamente la cosa qui è più seria, c'è di mezzo una crisi grave del settore auto, una guerra dei prezzi che indubbiamente c'è, va avanti anche questa da un paio d'anni almeno. Probabilmente non è stata la Volkswagen a iniziarla, anzi quasi sicuramente no, anche perché di solito le guerre dei prezzi le avvia chi è più in difficoltà. Al di là della Fiat, ricordiamo la Opel, non va bene, la Peugeot in profondo rosso, la stessa Ford europea ha appena presentato un bilancio negativo. Volkswagen, diciamo che a detta di molti analisti, negli ultimi tempi si è adeguata. Probabilmente, è quello per esempio che sostengono gli analisti della banca Barclays in un rapporto recente, non tanto con gli sconti, cioè Volkswagen diciamo che ha allineato i prezzi abbastanza a quelli dei concorrenti, anzi forse mantiene un minimo di margine dovuto appunto alla fama di maggior qualità delle sue vetture, ma sfruttando appunto la leva finanziaria. E qui dobbiamo contraddire un pochettino la mail che hai letto prima. Effettivamente forse in questo caso è anche merito dello spread. In che senso? Volkswagen si può finanziare, come molte aziende tedesche, a costi irrisori, e in questo periodo sta passando in aggiunta, scusami Andrea, tra l'altro la finanziaria di Volkswagen ha licenza bancaria, quindi si finanzia direttamente presso la BCE. Esatto, a tasso, se non ricordo male, l'1% o quasi zero. Questo lo possono fare in realtà anche le finanziarie, per esempio, della Peugeot e della Renault, quindi è un vantaggio che condivide con altre con altre aziende automobilistiche. Perdonami, poi ritorniamo sulla questione spread, ma come mai la Fiat ha fatto questa? C'è un motivo per il quale la Fiat ha fatto la scelta di non avere una finanziaria di questo tipo? La scelta risale alla grande crisi della Fiat, quando prima che arrivasse Marchionne, nell'anno, adesso cito a memoria, non mi ricordo, 2002-2003, Fiat praticamente scorporò la propria attività di finanziamento clienti, la Sava, la Fidis, in una joint venture con una banca francese, Crédit Agricole, e quindi non la controlla più, non la consolida più, e ha sicuramente un vantaggio, nel senso che il rating della banca era allora ed è ancora adesso molto più alto di quello di Fiat, quindi può finanziarsi a costi più bassi, ma non è come se avesse una finanziaria propria, e ripeto, non è tedesca e quindi non usufruisce in questo momento storico dei tassi quasi a zero di cui possono godere le aziende tedesche. Ricordiamo solo che la settimana scorsa Fiat ha emesso un bond con una cedola superiore al 7% per una durata quasi identica, per un ammontare simile la BMW paga l'1,25%. Allora, questo è il quadro dal punto di vista delle finanziarie, e poi tutto questo alla fine ha un impatto finale sul cliente. Beh, il cliente in questo momento innanzitutto in primis ci guadagna, nel senso che ha il coltello alla parte del manico, gli sconti li fanno tutti, le auto immatricolate a chilometri zero e rivendute appunto al cliente con lo sconto li fanno praticamente tutti. Nel caso del finanziamento, poi dicono gli analisti, il vantaggio per un'azienda come Volkswagen qual è? Che il cliente che piglia l'auto col finanziamento è tendenzialmente più fedele, rimane più legato, magari rinnova poi il finanziamento per la macchina successiva, eccetera. Quindi è un mezzo anche di finalizzazione, quindi conviene di più a chiunque, non solo a Volkswagen, fare praticare buone condizioni di credito piuttosto che fare un semplice sconto e basta. Ovviamente poi c'è l'impatto sui bilanci, quindi abbiamo detto che la maggior parte dei costruttori europei in questo momento sono in rosso. Volkswagen non guadagna i miliardi in Europa, fa molti soldi in Cina in questo momento, li fa in Brasile, in Europa va meglio degli altri. Ricordiamo che comunque Volkswagen ha una base di costo quasi tutta in Germania abbastanza elevata, quindi non può avere margini colossali. Tra l'altro all'interno del gruppo Volkswagen, per esempio, guadagna di più la Skoda con la sua fabbrica in Repubblica Ceca che non la Volkswagen con le fabbriche in Germania. Quindi in sostanza quello che diciamo ieri, e poi ti chiedo qualche chiarimento su questo, il costo al quale si finanzia Volkswagen poi va a ricadere anche sul finanziamento che chiede il cliente per prendere una macchina a rate, cioè Volkswagen di fatto può offrire delle rate con dei tassi di interesse molto più bassi. Esatto, più bassi che in questo momento aziende come Peugeot, ma anche Fiat, non sono in grado di offrire. E quindi per questa via può in qualche modo conquistare un po' di quota di mercato, quantomeno limitare i danni, nel senso che comunque quest'anno, a fronte di un mercato europeo in calo del 6%, le vendite di Volkswagen sono state stabili, non ha guadagnato ma sicuramente non ha perso, cosa che invece hanno fatto gli altri, Fiat, Peugeot, Renault, eccetera, Opel hanno perso attorno al 15% in media come quantità di auto vendute. Quindi questo è un po' l'impatto. Ci scrive appunto Mauro da Roma: questa è la spiegazione dei no della Merkel. Guardi, mi sembra lei abbia colto perfettamente il punto, perché la nostra intenzione nel toccare questo argomento Fiat era non solo di toccare una questione di stretta attualità, ma dare un'idea plastica, se vogliamo, di quale vantaggio competitivo abbia un'impresa tedesca rispetto ad un'impresa italiana concorrente. Ora noi vediamo Fiat e possiamo fare mille ragionamenti, magari adesso abbiamo qualche minuto anche per farli, sulla questione dei modelli, più che sulla qualità, insomma, possiamo fare anche un ragionamento sui modelli. E però immaginate due imprese meccaniche, sono giorni che lo diciamo, concorrenti, meccaniche quindi non dell'auto, magari di meccanica di precisione, concorrenti, una tedesca e una italiana, e pensate a come si finanzia un'impresa tedesca, a come si finanzia un'impresa italiana, e pensate all'asimmetria che c'è in questo momento sul mercato. Questo dal lato più generale. E poi c'è anche una questione di modelli, Andrea. Certamente, no, che Volkswagen e in generale i costruttori tedeschi abbiano una gamma più competitiva non è una novità, è anche attraverso quella che hanno guadagnato quote di mercato nel corso degli anni, anche prima della crisi. Volkswagen, ricordiamolo, oramai ha quasi un quarto del mercato europeo, è arrivata al 24% di quota. Diciamo che un po' mugugnando sottovoce, gli altri concorrenti cominciano, cioè sotto alle affermazioni Marchion, che peraltro anche i francesi fanno un po' più in silenzio, c'è il timore che Volkswagen cominci a diventare quasi un monopolio e stia sfruttando un po' anche questa sua forza di monopolista su certi mercati. Altrimenti le pratiche di Volkswagen di per sé, cioè fare degli sconti quando si ha un bilancio comunque inattivo, di per sé non sono pratiche commerciali né inusuali né particolarmente sleali. Io vorrei ricordare che 2 anni fa, quando la Toyota ha avuto tutti i richiami per le auto difettose negli Stati Uniti, tutti i concorrenti, compresa la Chrysler, si sono precipitati a fare degli sconti apposta ai clienti Toyota per portarglieli via. Diciamo che il mercato è questo. Sì, tra l'altro c'è un dato proprio riportato da voi, se non sbaglio, quello del Center for Automotive Research di Duisburg, che dice che a praticare gli sconti più forti in Germania sono Fiat ed Opel, in realtà, certo, che arrivano fino per una punta e una corsa fino al 31%. Sì, quindi... poi c'è anche un discorso di modelli, perché i due che hai citato, la punta e la corsa, sono relativamente vecchi, hanno 6 o 7 anni. È normale che un costruttore faccia degli sconti più elevati sui modelli più vecchi, e qui ci agganciamo al discorso che ha appena fatto. Marchionne ha bloccato gli investimenti, ha bloccato il rinnovo della gamma, lo sta per fare anche Peugeot, che peraltro ha lanciato adesso la 208, un modello molto importante, che però ha avuto delle grosse difficoltà sul mercato in questo momento. È ovvio che è un dilemma molto, molto pesante per i costruttori, perché lanciare un modello nuovo significa spendere 800 milioni, 1 miliardo di euro, che appesantiscono il bilancio nel breve periodo, ma se io non lo faccio per troppo tempo sono tagliato fuori dal mercato, rischio di perdere delle quote di mercato che poi mi sarà molto difficile recuperare dopo. Ultima domanda, con questa politica di prezzi Volkswagen vuole buttare qualcuno fuori dal mercato alla fine? Fuori qualcuno? Sicuramente un pensierino ce lo sta facendo. Diciamo che il più indiziato in questo momento ce l'ha proprio in casa, della Opel, che è quella messo peggio, che ricordiamo la Opel è controllata dagli americani di General Motors, che 3 anni fa volevano venderla, hanno deciso poi di non venderla, se la sono tenuta, stanno cercando di risanarla, ma è sempre in condizioni difficili. E ricordiamo tra l'altro che Opel è basata in Germania, ma il fatto che gli americani 3 anni fa abbiano cambiato idea e non l'abbiano più venduta ha molto indispettito il governo tedesco, che quindi sicuramente aiuterebbe la Opel, perché ci sono migliaia, decine di migliaia di posti di lavoro in gioco, però non la considera un'azienda, diciamo, al pari di Volkswagen o Mercedes o BMW, mettiamola in questi termini, quindi è il concorrente più a rischio. Chiarissimo, grazie Andrea Malan del Sole 24 Ore per essere stato con noi. Ci scrivete, io ho preso una BMW con finanziamento a 48 mesi, un tasso al 6,48%, non so che cosa dirle. Posso dirle però che, secondo dati che abbiamo riferito ieri, riportati all'agenzia Bloomberg, quindi fatti tramite degli analisti, un cliente a casa tedesca paga l'1,9% annuo della Volkswagen per ottenere un finanziamento da 10.000 euro, e si parla di Francia, e per un identico prestito ottenuto da Peugeot l'interesse va all'11,6%, questo anche per le condizioni finanziarie della stessa Peugeot, ovviamente, che sono diverse, da Renault al 5,9%, proprio perché appunto le condizioni finanziarie sono diverse. Quindi probabilmente si avvantaggia di una serie di elementi, di una solidità patrimoniale e industriale molto forte, e quindi la possibilità appunto di avere dei finanziamenti a tassi bassi, del fatto di avere la licenza bancaria nella propria finanziaria, e naturalmente anche della questione spread. Con questo chiudiamo, grazie ancora Andrea Malan e buonasera. Arrivederci. Di nuovo buonasera da Simone Spezia. Ci chiede Daniele da Milano al 349-238-6666 se questo ragionamento, il ragionamento che abbiamo fatto adesso, vuol dire che tenere i conti in ordine aiuta le imprese, i conti dello Stato in ordine. Sì, effettivamente aiuta le imprese, non è solamente questo, come ovvio e come abbiamo visto in questi giorni, non sono solamente i conti in ordine, ma sono evidentemente anche i mercati, che in questo momento chiaramente ci hanno penalizzato. Tenete presente, sempre a proposito di differenze di credito tra Germania ed Italia, adesso non ho i dati aggiornatissimi sotto mano, c'era un pezzo, un servizio, lo trovate anche su internet tra l'altro, in maggio del Sole 24 Ore, firmato da Luca Orlando, che raccontava come secondo appunto proprio in maggio sui tassi praticati alle imprese per prestiti inferiori al milione di euro e durata superiore ai 5 anni, la richiesta media degli istituti di credito in Italia in marzo era del 6,38%, in Germania era 3 punti percentuali in meno, 3 punti percentuali in meno di richiesta sul credito. Veniamo appunto a questi maledetti mercati. Chiara Di Cristofaro, Radio Cuore, Il Sole 24 Ore, buonasera, mi si è impicciata la lingua, ogni tanto succede. Buonasera, buonasera Chiara. Simone, buonasera agli ascoltatori. Allora, tutto bene, la giornata confortata, mi pare, in mattinata da dichiarazioni apparentemente, forse solo apparentemente, più concilianti del ministro tedesco Schäuble e poi nel pomeriggio al dato sul PIL americano. Sì, guarda Simone, la giornata è stata un po' anche come quella di ieri, innanzitutto all'insegna di un grande nervosismo e grande volatilità, per cui in realtà sono mercati un po' senza direzione questi, li abbiamo visti nella prima parte della settimana fortemente penalizzati, adesso stanno chiudendo il recupero. Come dicevi tu, come ricordavi tu, sono state le dichiarazioni oggi a farla da padrone, dichiarazioni e paure. Quindi in mattinata un'apertura in rialzo ancora sulla scia delle dichiarazioni di Mario Draghi di ieri, poi è arrivata la Bundesbank che invece ha gelato i listini, ha detto non, no agli acquisti di titoli di Stato da parte della BCE, immediatamente ha reagito lo spread, immediatamente indici in calo, di nuovo ripresa e allentamento dello spread sia dopo l'asta positiva dei bot italiani semestrali che è andata tutto sommato bene con rendimenti in calo, sia con le parole del ministro delle finanze tedesco che si è allineato un po' a quello che ha detto Draghi, poi il PIL americano e poi a chiudere la giornata un comunicato ufficiale di Francia e Germania che hanno dichiarato insieme in una nota congiunta di essere determinati a fare ogni cosa per proteggere la zona euro, sì, sostanzialmente sì. Quello che ha detto Draghi ieri. Sì, poi bisogna vedere cosa sarà questo qualsiasi cosa. Comunque, bene la Popolare Emilia Romagna, la migliore, il 6,25% in guadagno, bene Finmeccanica, più 5,34%, Mediolanum più 5,28%, Atlantia più 5%, Pirelli più 4,95%. Sì, Pirelli ieri ha dato i dati, è stata premiata dal mercato perché i dati erano tutto sommato positivi, perché stanno andando un po' in ombra, ma in realtà questo è un momento di trimestrali, quindi ci sarebbero storie da mettere in evidenza. I dati di ieri hanno evidenziato un primo semestre con un utile netto che è salito di quasi il 40%, quindi comunque una nota positiva, e soprattutto sono stati confermati i target di EBIT per il 2012 ad almeno 800 milioni. Oggi sono arrivate le note degli analisti che hanno tutte confermato, migliorato i giudizi sul titolo e quindi il mercato ha premiato decisamente Pirelli. Bene, tra l'altro in una giornata come oggi, ne abbiamo parlato fino adesso in realtà, di Fiat più 4,34%, tutto sereno nonostante appunto le polemiche con Volkswagen. Sì, esatto, diciamo che in questo caso il mercato se n'è un po' disinteressato, avete già detto quindi delle parole di Marchionne di ieri e della reazione violenta di Volkswagen di oggi, che ha chiesto le sue dimissioni dalla presidenza dell'ACEA. Volkswagen, che lo ricordiamo, ieri ha dato dei conti brillantissimi in contrasto rispetto a tutto il settore automotive europeo, un settore comunque fortemente penalizzato che aveva perduto molto nelle scorse sedute, quindi oggi diciamo che in questa giornata di ottimismo anche il recupero di Fiat e di Fiat è un po' in quest'ottica. Chiara, non mi sembra in realtà che la giornata di oggi abbia portato temi particolari, insomma nei giorni scorsi abbiamo visto scendere e poi salire i bancari, oggi sono comportati bene in linea di massima, ma niente di straordinario, no? Sì, ma infatti le giornate, per questo dicevo un po' all'inizio, è un po' difficile trovare dei temi specifici. I bancari stanno seguendo in queste sedute l'andamento dello spread, quindi scendono tanto il giorno che lo spread si allarga e salgono il giorno che si restringe come oggi, quindi hanno tra l'altro messo a segno, come ricordavi tu, tutti i rialzi importanti, ma senza un motivo societario particolare che li giustifichi. Ha qualche motivo in più invece Saipem per salire del 2,25%? Sì, per Saipem qualche notizia è arrivata ieri, perché sono arrivati nuovi contratti da 800 milioni in Nigeria. Il titolo oggi ne ha beneficiato anche perché gli analisti hanno migliorato le stime sugli ordini per il prossimo anno, quindi questo ha sicuramente spinto al rialzo il titolo, che anche qui comunque si inserisce in un comparto petrolifero tutto in positivo oggi, anche perché il petrolio è tornato a salire. Eni ha fatto un più 3,10%, quindi oltre diciamo alle notizie che riguardano proprio la società, il settore è andato tutto abbastanza bene. Bene anche Telecom Italia, quasi più 3% alla fine. Sì, Telecom Italia è stata parecchio penalizzata nelle ultime sedute, ha recuperato negli ultimi due o tre giorni. Qui c'era vicenda del Brasile, in questo momento Bernabé è in Brasile, sta cercando di risolvere la questione dei nuovi contratti di Team Brasil, che erano stati bloccati dall'autorità a causa di investimenti considerati insufficienti. Bernabé si è detto molto ottimista, la situazione si dovrebbe risolvere, e di fatto Telecom ha recuperato terreno. Siamo comunque a dei livelli molto bassi per il titolo, questo va ricordato. Infine tutta quella che eravamo abituati a chiamare la galassia Ligresti, che non chiameremo più così naturalmente. Dovremo trovare un altro nome. Comunque sì, lì i movimenti che si vedono in questi giorni sono amplissimi ma prevalentemente tecnici. Si è chiusa ieri la negoziazione dei diritti, adesso è ancora in corso l'aumento di capitale che si chiude il 1 agosto. Fondiaria Sai oggi ha perso il 58,8% sul finale, è stata sospesa poi per la maggior parte della seduta, chiaramente è andata in assa di volatilità. Unipol meno 10,74%, qui appunto per capire cosa ne sarà effettivamente dei titoli bisognerà aspettare la prossima settimana dopo l'aumento di capitale, perché questi livelli ovviamente sono legati proprio ai fattori tecnici dell'aumento. Grazie a Chiara Di Cristofaro di Radio Cuore il Sole 24 Ore per essere stata con noi. Chiara, buonasera. Buonasera Simone, grazie a te. E noi vi diamo anche un quadro del resto del mercato. Sul FTSE MIB l'unico titolo negativo è Lottomatica, meno 0,31%, Monte dei Paschi chiude in perfetto pareggio, Campari in guadagno dello 0,27%, Prismian dello 0,62%, Impregilo dell'1,20%, Luxottica dell'1,28%, Snam dell'1,3%, così come Parmalat. Tots guadagna l'1,4%, Terna 1,5%. L'1,7 Tenari, Sansaldo e Diasori, in quasi 2 punti percentuali la Popolare di Milano, così come Exor, la finanziaria che poi controlla Fiat. Autogrill più 2%, così come Intesa San Paolo, in realtà 2,10 Intesa San Paolo. Saipem più 2,25%, Enel Green Power più 2,3, così come Azimut. Ferragamo più 2,4, più 2,6 il Banco Popolare. UBI Banca più 2,8. Più 2,9 Enel e appunto Telecom Italia, come si diceva, più 3,10 Eni, Mediaset più 3,2, A2A un 3,5% di guadagno, Generali e Fiat Industrial più 3,7, SD Microelectronics più 3,9, Buzzi Unicem più 4,10 e 19%, quasi un più 4,20. Un quadro anche dal lato titoli di Stato: il rendimento dei titoli italiani a 10 anni al 5,95%, lo spread tra BTP e Bund, ossia la differenza di rendimento con i titoli tedeschi, è a 456 punti. Da segnalare anche a fronte di questo calo dello spread, che nei giorni scorsi c'è stato, seppur limitato, anche un rialzo dei rendimenti dei titoli a 10 anni tedeschi, che erano all'1,18% appena 3 giorni fa e adesso sono all'1,39%, quindi non un rialzo mostruoso, però un rialzo. Andiamo a vedere anche cosa succede al lato dei titoli di Stato spagnoli, perché anche questo è un elemento interessante: al 6,74% il rendimento dei titoli decennali, anche qua in netto calo, e spread anche qua in netto calo a 500. E dunque veniamo a parlare di prima rispondiamo a qualche SMS, vabbè, insomma, chi ci dice che insomma non compro Fiat perché Marchionne è un cialtrone, insomma, voglio dire, spero che veramente, che anche se considera Marchionne un cialtrone, non faccia la sua scelta di un'auto e quindi di una spesa così, così forte come l'acquisto di un'auto sulla base di come considera l'amministratore delegato. Sarebbe curioso. Niente male la battuta, perché stavamo cercando un nuovo nome, dicevamo, insomma, non dovremmo più chiamarla Galassia Ligresti, perché così non si chiamerà più l'assetto Fondiaria SAI, Premafin, eccetera. Ci scrive un ascoltatore al 349-238-6666, Palude Ligresti. Non è male, oggettivamente. Veniamo a parlare di BCE. Di BCE e non solo, anche di politica interna tedesca, insomma di dibattito interno tedesco, ammesso che ce ne sia uno. L'abbiamo detto spesso nelle settimane scorse, lo leggete sui giornali, in realtà non è la Germania quel monolite che si pensa che sia. Però, visto che abbiamo appena parlato di mercati, mi corre l'obbligo di aggiornarvi anche su un'altra cosa. Come sapete, come forse sapete, ieri notte sono stati diffusi i risultati da Facebook. Insomma, chi ha comprato Facebook non può certo dirsi soddisfatto, insomma, chi c'è entrato fin dall'inizio. Considerate che sulla base di questi risultati Facebook sta perdendo in questo momento il 14,1%. Questo giusto per dare la misura. Dunque veniamo a parlare di Berlino e di Francoforte. Ci sono state innanzitutto questa mattina le reazioni piuttosto fredde, la reazione piuttosto fredda della Bundesbank all'attese di una ripresa degli acquisti di titoli di Stato da parte della BCE. Non abbiamo cambiato parere su quella questione, dicono, e il parere, come sappiamo, è negativo. Gli acquisti sono problematici, aggiunto Bundesbank, creano falsi incentivi, che è il mantra che sentiamo ripetere da parecchio tempo. Saluto Alessandro Merli, corrispondente del Sole 24 Ore da Francoforte. Buonasera Alessandro. Buonasera a voi. Allora, queste sono le parole della Bundesbank. Le parole invece del ministro tedesco Schäuble sono che le parole di Draghi vanno bene, cioè il fatto che la BCE sia pronta a fare di tutto per salvare l'euro, aperte virgolette, sempre nell'ambito del mandato, chiuse virgolette, è positivo. C'è chi legge una sorta di scontro tra la banca centrale tedesca e il governo di Berlino. È così? Ma credo che ci sia sia una sopravvalutazione della Bundesbank o di quello che ha detto la Bundesbank, e sia, secondo me, un po' un'esagerazione di questo possibile scontro istituzionale, nel senso che i due hanno delle parti ben diverse da giocare. Aggiungo che alla presa di posizione di Schäuble ce n'è stata una successiva, direi ancora più importante, che è quella dell'incontro bilaterale fra il cancelliere Angela Merkel e il presidente francese François Hollande, che a loro volta hanno ripetuto quasi parola per parola la dichiarazione di Draghi di ieri, cioè che bisogna fare tutto quello che si può per salvare l'euro e che ogni istituzione europea dovrà fare la sua parte. Credo che in questo momento quindi l'aspetto prevalente sia l'aspetto di un sostegno politico molto forte venuto dai due paesi più importanti dell'Eurozona alle parole di Draghi. Il fatto che la dichiarazione di Schäuble, della sua portavoce, sia venuta subito dopo questi distinguo della Bundesbank è abbastanza significativo. La Bundesbank ovviamente ha un suo ruolo da giocare, che è quello di guardiano della moneta, di difesa di una tradizione che era quella del marco, e quindi fa questa parte. Se in più ci aggiungiamo che il presidente della Bundesbank Weidmann è stato paracadutato dentro la Bundesbank in quanto non era un banchiere centrale ma era il consigliere della signora Merkel, che quindi deve far vedere che in qualche modo afferma la sua indipendenza. Questi sono tutti ingredienti che spiegano un po' la posizione della Bundesbank al di là del merito, però credo che in questo momento sia nettamente prevalente l'endorsement, l'appoggio che è venuto sia dal Ministro delle Finanze sia dal Cancelliere e dal Cancelliere insieme al Presidente francese, che non la dichiarazione della Bundesbank, che in fondo ci ripete una posizione che sapevamo benissimo. La stessa Bundesbank ammette di avere un voto su 22 nel Consiglio. Ma secondo te, ecco, avrà ma... qualcuno disposto a sostenerla, però non una maggioranza. Perdonami Alessandro, ma a questo punto a te sembra che ci sia una possibilità concreta nel caso Draghi scelga come preferibile la modalità di acquisto di titoli di Stato dei paesi periferici, come nel caso dell'Italia e della Spagna, che si vada ad una decisione a maggioranza? Cioè, ti sembra possibile che Draghi forzi la mano in questo modo? Ma non è da escludere, nel senso che già altre volte queste decisioni sono state prese a maggioranza. In passato, come ricorderai, ci sono stati anche degli scontri violenti, diciamo, fra la Bundesbank e la Banca Centrale Europea. Quando furono varati per la prima volta questi acquisti di titoli, il presidente della Bundesbank, Axel Weber, si dimise proprio per dimostrare il suo dissenso, e in questo modo si giocò anche la possibilità di succedere a Trichet alla presidenza della BCE. Meno male, Draghi, viene da dire. Draghi è stato però molto attento a non creare delle occasioni di scontro con la Bundesbank. Ci possono essere dei dissensi, ce ne sono già stati, per esempio sull'ampliamento dei criteri per i collaterali, le garanzie che le banche devono prestare alla BCE per avere i finanziamenti. La Bundesbank non era d'accordo e lo ha detto pubblicamente, però direi che Draghi ha sempre cercato di mantenere un rapporto diciamo corrente, abbastanza buono con la Bundesbank, e soprattutto credo che il peso di una presa di posizione della Bundesbank sia molto depotenziato dal fatto che quasi contemporaneamente le due voci più importanti del governo, cioè il cancelliere e il ministro delle finanze, hanno invece avallato quello che ha detto Draghi. Quindi a questo punto mi sembra di capire che l'ipotesi più probabile sia esattamente quella, cioè di far ripartire un programma di acquisto di titoli di Stato. Diciamo la verità, questa opzione non è mai piaciuta molto neanche a Draghi, cioè Draghi ritiene che chi deve fare questi interventi siano i fondi salva Stati europei, cioè l'IFSF, e quando finalmente sarà operativo l'ISM. Per cui ha sempre ritenuto questa come un'opzione temporanea. Se, ed è ancora un condizionale, è disposto adesso a farli ripartire, ammesso che sia questa la strada scelta, perché la BCE potrebbe sceglierne altre, se è disposto a far ripartire questi acquisti, io credo che abbia avuto qualche garanzia che saranno per un periodo relativamente limitato e che presto subentreranno o l'IFSF, che del resto è già pronto per intervenire, nel senso che non c'è nessun ostacolo tecnico agli interventi dell'IFSF, e successivamente da settembre in poi, quando finalmente la Corte Costituzionale tedesca avrà dato il via libera, poi l'ISM, che ha una dotazione più ampia di risorse, che è un fondo permanente a differenza dell'IFSF. Quindi io credo che se Draghi ha fatto questo passo, ha fatto questa dichiarazione, evidentemente poi i mercati, che l'hanno accolta con grande entusiasmo, aspettano di vedere che si faccia qualcosa all'atto pratico, però io credo che Draghi l'abbia fatto avendo avuto qualche seria rassicurazione che la cosa non sarà a tempo indeterminato, ma che poi servirà solo, diciamo, a fare da ponte a questi interventi dei fondi salvataggio. E probabilmente avendo anche la rassicurazione dell'appoggio dei tedeschi, suppongo, no? per evitare di essere massacrato il giorno dopo, diciamo. Posizione della signora Merkel e anche di Schäuble oggi sia stata abbastanza esplicita. Le 18 e 11 minuti, di nuovo buonasera da Simone Spezia. C'è la notizia arrivata poco fa dalla Consob che ha deciso di fermare le vendite allo scoperto fino al 14 settembre, divieto delle vendite allo scoperto sui titoli del settore bancario e assicurativo che era stata introdotta lunedì scorso in una giornata di fortissima tensione sui mercati e che era stato deciso che sarebbe durata fino a venerdì. Alla fine si è deciso di estenderla, come saprete, come ricorderete, anche Madrid l'ha imposta, anche la Borsa di Madrid l'ha imposta, durerà invece per 3 mesi. Visto che parliamo di mercati, fatemi dare anche una bella notizia che ci è arrivata poco fa nella nostra trasmissione Salvadanaio. La nostra Deborah Rosciani ha vinto il premio come miglior trasmissione radiofonica finanziaria. Il premio è il Fee Only 2012, assegnato dai consulenti finanziari indipendenti italiani. E veniamo a parlare di Ilva. A proposito di BCE invece ci scrivete, ricordiamo che la funzione della BCE è il corretto funzionamento dei canali di trasmissione della politica monetaria, quindi oltre al controllo dell'inflazione deve agire anche sugli spread se sono incongrui. Vero, tanto che è esattamente quello che ha ricordato Mario Draghi, quindi è probabilmente sulla base di questa leva che ci si muoverà. La vicenda Ilva, oggi sul tavolo del Consiglio dei Ministri, dopo la decisione della magistratura di bloccare 6 reparti a caldo dello stabilimento di Taranto, di sottoporre a custodia cautelare e domiciliari 8 dirigenti, tra cui Emilio Riva e il figlio Nicola, decisioni prese nell'ambito dell'indagine per disastro ambientale a carico del gruppo siderurgico. Il 3 agosto, la settimana prossima, il riesame su sequestro e arresti. Il procuratore generale di Lecce dice che non c'era alternativa al sequestro e dice: mentre di giorno l'Ilva rispettava le prescrizioni imposte, di notte le violava. E questo è confermato, dice appunto il procuratore generale di Lecce Giuseppe Vignola, o Vignola, chiedo scusa se sbaglio, è confermato da rilievi fotografici eseguiti per 40 giorni nel corso dell'inchiesta. Da parte della difesa dell'azienda non è stata espletata fino ad oggi alcuna concreta attività difensiva, ad esempio nessuna controperizia che contestasse le relazioni tecniche, riferisce il procuratore della Repubblica di Taranto Franco Sebastio. Il Consiglio dei Ministri ha confermato il sostegno all'azienda, il segretario della CISL Bonanni parla di necessità di salvaguardare il sito di Taranto, ci sarà una voragine occupazionale e parla di conseguenze drammatiche la Federacciai, che è l'associazione che raccoglie i produttori. E ancora aggiunge: il sequestro è avvenuto su opinabili valutazioni. Saluto Emanuele Morandi, che è presidente di Siderweb, è un sito che si occupa proprio di informazione sul settore dell'acciaio, è www.siderweb.com. Buonasera Morandi. Buonasera dottor Spezia. E con lei vogliamo fare il punto su un paio di elementi, a partire dal... noi abbiamo parlato a lungo degli effetti sull'occupazione naturalmente e sull'indotto. E invece con lei vogliamo toccare l'argomento degli utilizzatori, insomma, di dove va e che peso ha sull'economia siderurgica italiana. E allora con Emanuele Morandi, presidente di Siderweb, ci aiuti, dia qualche numero in senso buono naturalmente. Ecco, la ringrazio. No, la riflessione che facevamo attorno a questa vicenda molto, molto complessa è che il ruolo dell'industria siderurgica italiana è molto importante proprio per l'industria in sé. Non può esistere un'economia reale senza un'industria forte e non può esistere un'industria forte senza una siderurgia forte. L'Ilva produce circa 9 milioni di tonnellate di acciaio a caldo, che verrebbe, diciamo, sarebbero tonnellate che verrebbero a mancare nel caso di interruzione. Ecco, però non ci sarebbe solo la perdita di cui hanno parlato a lungo i giornali, i media. Ci dà una misura, mi scusi, ci dà una misura, questi 9 milioni di tonnellate a caldo, a quanto equivalgono sul prodotto? La chiusura totale dell'Ilva calcolavamo che vale sul PIL attorno a uno 0,15% in modo diretto e attorno a uno 0,165% tenendo conto anche dell'indiretto, però soffermandoci soltanto all'Ilva, perché ci si dimentica... No, mi perdoni, no, volevo capire quanto pesano queste 9 milioni di tonnellate sul totale dell'acciaio a caldo prodotto in Italia. Ma circa la metà, diciamo che siamo più o meno sulla... diciamo queste 9 milioni sono quelle che verrebbero interrotte. L'Ilva pesa circa sulla metà della produzione italiana. Chiarissimo. L'Ilva produce circa 16,1 milioni di tonnellate sui 28-29 prodotti. Perfetto. E ci diceva che la questione naturalmente è dove va questo acciaio. Esatto. Diciamo che la produzione dell'acciaio è molto importante per tutte le filiere, si va dal settore dell'automobilistico a quello dell'elettrodomestico, a quello delle costruzioni, a quello della meccanica. La meccanica, per fermarci un attimino soltanto su questa, noi tante volte raccontiamo del Made in Steel, del Made in Italy, che è molto importante per l'estero, il settore moda. La meccanica rappresenta per l'export 7 volte il settore moda. E il settore meccanico vive soprattutto per buona parte anche di quello che può consegnare il settore dell'acciaio. Quindi la chiusura dell'Ilva creerebbe veramente un grosso problema per tutta la filiera, dai centri di servizio che lavorano questo materiale alle imprese utilizzatrici automobilistiche, elettrodomestiche, ma anche i settori per esempio delle energie rinnovabili piuttosto che il settore delle costruzioni e in particolare quello delle travi pesanti. Quindi sarebbe in caso di chiusura, quindi le aziende che si riforniscono dall'Ilva dovrebbero resettare completamente l'approvvigionamento e parliamo appunto quindi di un approvvigionamento consistente e rivolgersi presumibilmente all'estero. Esatto. In questo modo noi diventeremmo, e non lo siamo più almeno dal 1950 in poi, dal dopoguerra, diventeremmo di nuovo un paese dove potrebbero arrivare delle scorribande di paesi terzi. Soprattutto sto pensando anche alla Germania, nel senso che l'Italia è la seconda potenza manifatturiera europea. Ma senza l'Ilva si vedrebbe costretta ad importare buona parte dell'acciaio che le serve per rifornire tutte le sue filiere. In questo caso parlerei ancora di uno spread a favore della Germania, altrettanto importante come quello che si è creato anche a livello finanziario, nel senso che tutta la nostra economia reale darebbe un vantaggio enorme alla Germania, che in questo caso colmerebbe le mancanze derivanti dalla chiusura dell'Ilva. Allora, io ho anche un'altra domanda, perché è una cosa che io vorrei veramente cercare di capire dal punto di vista tecnico e come sentite, stiamo cercando veramente di far ragionamenti puramente economici, conservando l'attenzione per una questione che, ripeto, e come ho già detto ieri, è molto delicata e che non si può riassumere nella brutalità dell'espressione salute contro lavoro, perché è assolutamente sbagliato. È naturalmente un discorso più complesso, ci sono ragionamenti da fare, ci sono ordinanze da leggere. Allora, e documenti da leggere, documenti legali da leggere, informazioni appunto sullo stato di Taranto, quartieri vicini e così via. Quindi è un discorso sul quale al momento non vogliamo entrare. Quello che voglio capire da lei è se la chiusura eventuale dell'alto forno in seguito al provvedimento di sequestro, da quel che ho capito, potrebbe essere disastroso per l'alto forno stesso. Sì, diciamo che allora io sono un bresciano più esperto forse di forno elettrico che non di alti forni, però la chiusura dell'alto forno è un'operazione molto molto molto complessa. Lo spegnimento dell'alto forno potrebbe anche decretarne diciamo completamente la sua rottura. Ecco, tenga conto che un alto forno ha una vita media di 12-14 anni ed è anche un investimento molto costoso, sull'ordine degli 800 milioni, un miliardo di euro. E il suo spegnimento quindi potrebbe creare un problema di rottura e di diciamo di interruzione completa di danneggiamento irreparabile. Questo, ma anche nel caso fosse non ci fosse questo danneggiamento irreparabile, lo spegnimento dell'alto forno, ripeto, con procedimento molto complesso, creerà comunque una fermata, se l'alto forno fosse svuotato, di almeno 6-8 mesi prima che possa ripartire in modo corretto, prima di riuscire in qualche modo ad alimentare il laminatoio a valle in modo efficiente. E questo infatti mi lascia, leggendo anche la sentenza del GIP, ho visto che ci sono stati 3 incaricati che sono un pool di esperti, 2 dell'ARPA e un dirigente del Dipartimento di Prevenzione Ambientale di Bari, che sono stati incaricati di questo spegnimento. Ecco, qui sollevo semplicemente un interrogativo, dico non so se hanno le competenze per guidare questo spegnimento, che è veramente un procedimento molto molto molto complesso. Grazie ad Emanuele Morandi, presidente di Siderweb, per la chiarezza e per averci aiutato, lo ripeto ancora una volta, solamente a dare delle spiegazioni sulla base di dati. Non come sentite, non siamo entrati nel merito, parliamo però adesso dello sciopero dei benzinai, dei gestori. Sciopero dei gestori che non c'è più. Quindi, saluto Giorgio Moretti, segretario generale della FIGIST. È sempre un po' difficile da pronunciare. Moretti, buonasera. Buonasera. Allora, è andato bene a quanto pare questo incontro con il sottosegretario De Vincenti. Salta lo sciopero del 4-5 agosto, come mai? Diciamo che bisogna dare atto al sottosegretario De Vincenti di aver assunto con determinazione la questione della vertenza che è in piedi. E lo sciopero, così per correttezza informativa, è rinviato, e chiaramente ci sono una serie di situazioni da verificare. Le parti, chiamiamole sociali, le controparti nel caso nostro, hanno dimostrato disponibilità ad avviare da subito alcune trattative su contenuti di cui, se vuole, poi parliamo. Noi per parte nostra abbiamo ritenuto fosse responsabile accedere a un momento anche in cui è il periodo delle ferie, eccetera, come dire, dare un'apertura di credito importante al lavoro del sottosegretario e quindi rinviare tutte le manifestazioni che dovevamo fare, perché c'era anche una fase di non accettazione delle carte di pagamento presso gli impianti, più lo sciopero che era stato proclamato per il 4 e 5 agosto, sabato e domenica la prossima. Certo, allora le chiedo di essere breve per riassumere i motivi della protesta. Allora, da una parte c'è una questione delle carte di pagamento sulle quali insomma, come dire, le banche stanno un po', questo è quello che sostenete, aggirando le norme, dall'altra parte le mega politiche di sconti. Beh, diciamo che sostanzialmente sì, queste sono due tematiche forti della questione, ma c'è più in generale una crisi del settore, una situazione molto grave delle gestioni, con forti indebitamenti, con moltissime incertezze anche di natura contrattuale ed economica. Si tratta di accordi economici che non sono tutti quanti scaduti, non venivano rinnovati, si sta approfittando, come dire, di una situazione di fluidità in questo settore per non andare ad una contrattazione. Si parla di nuovi contratti, che poi sono quelli che sono previsti a leggi sulle liberalizzazioni. Le carte di credito, come lei sa, in questo settore dovrebbero essere gratuite, non dovrebbero comportare costi di commissione per effetto ancora del decreto 201-2012. E poi c'è la questione degli sconti, su cui c'è da dire che in realtà, per la maniera in cui sono fatti, per il fatto che coinvolgono una parte solo della rete, sono scelti arbitrariamente in qualche maniera dalle aziende, altro non hanno fatto che far aumentare ed enfatizzare le grossissime difficoltà tra gestori e gestori, discriminandoli sul punto di vista della competitività e dei margini. Grazie a Giorgio Moretti, segretario generale di FIGISC, per essere stato con noi. Grazie come sempre a Barbara Bianchi e Mauro Del Corno in redazione, questa sera Roberto Scaltritti in regia. Un grazie a tutti voi per l'ascolto. Ci chiedete se Sebastiano Barisoni è in ferie. Sì, lo è, insomma, ogni tanto ci prendiamo le ferie anche noi qua a Radio 24. Ci sarò ancora io la prossima settimana e poi la settimana successiva Deborah Rosciani. Quindi ci risentiamo lunedì dopo il GR delle 17. Radio 24. La passione si sente.